canta El grillo, el grillo es buen cantor que tiene longo verso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo, el grillo es buen cantor, ma non fa come gli altri uccelli, come lì ha cantato un poco. Vale fato in altro luogo, sempre il grillo sta pur saldo, quando la maggiore è caldo, allora canta sol per amore, amore. Il grillo è quel cantore che tiene lungo Grillo, canta, il grillo è buon cantore.